E. Ascolta il testo. Della città di Segesta, fondata 12 secoli avanti Cristo e particolarmente prospera sotto i Greci, rimangono pochi resti, ma il tempio con le sue 36 colonne è ottimamente conservato ed è uno dei più notevoli esempi dell'architettura dorica. Probabilmente costruito intorno alla seconda metà del V secolo avanti Cristo, è posto sulla cima di una collina a ovest della città, fuori dalle sue mura. Per stile e stato di conservazione, è uno fra i templi più belli dell'antichità. È interessante anche il teatro, eretto alla metà del III secolo avanti Cristo sulla collina sopra quella del tempio. Originariamente, il teatro poteva ospitare oltre 3.000 persone, ma ora la zona superiore è semidistrutta. E resta poco anche della scena, che, secondo gli studiosi, era decorata da colonne e pilastri.